uomo che combatte per 10 anni contro gli invasori sovietici, perde un occhio in questa cosa, ha una serie di ferite, beh, se lo strappa e si benda. Poi combatti i signori della guerra e, come dirà all'inizio della sua avventura il giovane Omar, dice: come potevamo tollerare una situazione con questi crimini contro le donne e contro la povera gente? E che poi combatte da 10 anni altri invasori arroganti, più dei primi. Gli americani. Sì, gli americani e noi, perché siamo tutti. Che pretendono di portare i loro valori, le loro istituzioni, le cose, un paese che ha tradizioni, storie completamente diverse. Beh, io posso non essere d'accordo naturalmente sull'ideologia del Mullah Omar, ma lo rispetto profondamente. E qui sarebbe un eroe uno che ha fatto una cosa del genere. Noi lo prendiamo per un terrorista, cosa che non è mai stata.